Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno, benvenuti, Luca Tremolada al microfono, Nova Lab 24, siamo in gradita compagnia con Guido Romeo. Buongiorno Guido. Buongiorno Luca. Buongiorno, visto come siamo coordinati, allora oggi torniamo su un tema a noi carissimo, insomma quello dell'ambiente, quello del riciclo, quello dei rifiuti. Noi insomma ci occupiamo di queste cose anche, lo facciamo da settembre, raccontiamo un po' le storie della sostenibilità ambientale. Sì, questa è anche una bella storia perché spieghiamo come il rifiuto da costo possa diventare un valore, insomma. Esatto, e poi raccontiamo anche tutti questi imprenditori che si stanno lanciando in questo nuovo settore. Alcuni erano già presenti da tempo, altri si stanno affacciando solo ora, le università, insomma un ecosistema, la sdoganiamo questa parola? Ecosistema e via. E allora, dopo aver sdoganato ecosistema, ne sdoganeremo un'altra di parolaccia, ma ora le news. Più controlli per Wikipedia, l'enciclopedia aperta ai contributi di chiunque abbia varato un progetto di revisione. Le ultime modifiche di ogni pagina saranno pubblicate in uno spazio riservato. Un gruppo di volontari autorizzati da Wikipedia avrà l'incarico di controllare i contenuti e pubblicarli su internet. È una misura resa necessaria dagli atti di vandalismo che danneggiano le voci enciclopediche. I computer a basso costo OLPC puntano sulle scuole secondarie. A lanciare l'iniziativa è stato il guru della tecnologia Nicolas Negroponte per diffondere l'informatica nei paesi in via di sviluppo. La nuova versione ha una tastiera più grande e un software aggiornato. L'Uruguay ha ordinato 90.000 computer OLPC per i suoi studenti dei licei. Passiamo alle scienze. Vola al settore eolico. Secondo le previsioni dell'IWEA, entro l'anno saranno installate in Europa turbine per 10 gigawatt. Sono dati diffusi in occasione della Giornata Mondiale del Vento. A guidare la crescita sarà la Germania. In Italia, il parco nazionale di impianti che sfruttano l'energia dell'aria aumenterà di circa 1 gigawatt. Rieccoci tornati in studio. Allora, abbiamo parlato di giovani imprenditori. Noi siamo in collegamento con Fabio Fava. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora, a tutti voi. Lui, tu lavori, ti posso dare del lei, del tu? No, tu va benissimo, grazie. Del tu va benissimo, ok, sì. Di Namaste. Sentiamo prima la scheda che fa un po' racconta la scheda di Guido Romeo, che insomma racconta quello che vi siete inventati, e poi torniamo subito a chiacchierare con te. Foglie di mais, bucce di fagiolini e pomodoro, polpe e scorze di arancio. L'industria alimentare europea ogni anno produce oltre 250 milioni di tonnellate di scarti. L'Italia, con il 10% della produzione di scarti, è al terzo posto dopo Spagna e Francia, nella produzione di quella che è una vera e propria montagna di materiale organico, che deve essere smaltito con cura per evitare fermentazioni, cattivi odori e inquinamento, ma che presto potrebbe diventare una risorsa per il settore. Nelle mani dei ricercatori del progetto Namaste, coordinato dall'Università di Bologna, i microorganismi promettono di trasformare quello che oggi è uno scarto da smaltire, come la crusca di frumento, in sottoprodotti come la vanillina, un aroma molto richiesto dall'industria alimentare. E non è che l'inizio. Da altri scarti opportunamente trattati si potranno ricavare snack ad alto contenuto di antiossidanti e fibre, ottimi per prevenire le malattie cardiovascolari e l'obesità. Altre possibilità sono biofuel, molecole di base per la farmaceutica e la chimica. Secondo gli analisti di McKinsey, ciò che oggi finisce nella pattumiera, domani potrebbe diventare un vero e proprio tesoro, del valore di oltre 125 miliardi l'anno. Ecco, professor Fava, io ho detto imprenditore, perché in realtà questa è un'idea imprenditoriale vera. Certo. Sì, in realtà è un progetto di ricerca europeo, ma è molto indirizzato all'industria e quindi un progetto a pieno titolo di ricerca industriale, che vede peraltro la partecipazione di tre industrie europee importanti, oltre naturalmente a dei gruppi di ricerca, dei centri di ricerca, altri tre, e l'Università di Bologna che guida il progetto, che insieme a questi tre centri di ricerca ha un po' il compito di mettere a punto quelli che sono i processi necessari per questa trasformazione da appunto un sottoprodotto in nuovi alimenti. C'è una ricerca di base tutta da mettere a punto, però sarà fatto insieme alle industrie proprio perché questo percorso preliminare sia pronto, sia già quindi orientato. Quindi non pronuncia professore la parola spin-off, non pronuncia l'esigenza, la vocazione a fare un allontanarsi un pelo dall'università per provare a ingegnerizzare questa soluzione. Ma ovviamente questo è un progetto già confezionato, è un progetto europeo che ha vinto una comparazione a Bruxelles e che vede già i suoi partner dall'inizio. Certamente per questo progetto i partner sono già quelli individuati, poi è possibile che al termine dello stesso alcuni di questi centri di ricerca diano vita a degli spin-off. Però per il momento il partenariato è di questo tipo e questo deve restare fino in fondo al progetto. Ma professore, ci spieghi una cosa, come si fa a trasformare, come dire, un rifiuto, qualcosa che di solito viene smaltito o bruciato, invece in qualcosa che poi alla fine noi mangiamo? Abbiamo parlato appunto di snack che fanno bene al cuore, oppure di aromi come la vanillina, insomma. Certo, beh, è un percorso abbastanza lungo e anche periglioso, se vuole, ed è per questo che serve condurre per un paio d'anni una buona ricerca di base condotta in laboratorio. E si tratta intanto di materie prime che vengono di materie prime, di sottoprodotti della lavorazione del grano, da una parte, dei sottoprodotti della lavorazione delle arance, dei mandarini, dei limoni dall'altro, materiale che viene raccolto a fianco alle filiere che lavorano queste materie prime e che viene poi subito caratterizzato per la sua adeguatezza, insomma, per le trasformazioni che seguono, cioè viene escluso ogni tipo di contaminazione chimica o microbiologica che potrebbe compromettere il percorso a valle. Ecco, quindi non ci sono rischi, diciamolo subito, per i consumatori che dicono non è che questi, come dire, vengono presi sottoprodotti dalla pattumiera e rimessi nel ciclo alimentare, sono prodotti sicuri. C'era un film di fantascienza degli anni 70 dove cioè, tutto quello che noi si buttava via diventava cibo. Era ci sono anche tante storie di cronaca quasi nera in cui i fanghi e le schifezze tornano nella catena alimentare, ma non è assolutamente questo il caso. Esatto, sì, noi intercettiamo questo materiale prima che vada in pattumiera. Adesso va in pattumiera per una grossa parte, grosse percentuali del materiale prodotto. Noi ovviamente cerchiamo di sviluppare delle soluzioni per utilizzare tutto questo materiale e evitare che vada in pattumiera, ma che diventi un'opportunità, quindi nuovi alimenti. È chiaro che una volta raccolto ed escluso, insomma, esclusa la contaminazione o chimica o microbiologica, questo materiale viene poi stabilizzato, cioè trattato in modo tale che possa rimanere, si possa conservare, insomma, per un tempo anche di una settimana necessario per i processi a valle. E sostanzialmente in questa fase riduciamo il contenuto di acqua del materiale e poi interveniamo su questo destrutturandolo attraverso l'impiego di agenti biologici come enzimi oppure dei trattamenti di tipo fisico, quindi non so, un blando riscaldamento oppure azione con azione meccanica con apparati appositi, e questo proprio nell'ottica di alterare la struttura e consentire la liberazione di quelle che sono le molecole più importanti che questa contiene, che sono antiossidanti, sono vitamine, ecco, professore, fibre ed altro. Due domande, cioè, innanzitutto quanto costa poi passare? Lei ha parlato prima, accennato a ricerca di base, facendoci un po' intuire, insomma, il risultato è garantito, però il costo, insomma, è alto. Ma non necessariamente, sono queste che sto citando delle tecniche abbastanza semplici, in parte sviluppate, quello che c'è da fare è di metterle in sequenza, nella giusta sequenza, per intanto riuscire nel caso specifico fatto fin qui a liberare le molecole di cui abbiamo bisogno. Non solo, do già una risposta un po' più ampia alla sua domanda, tenga conto che stiamo parlando di utilizzare un del materiale che in questo momento non ha un costo, anzi rappresenta un costo per l'industria che lo produce, perché deve smaltirlo. Stiamo parlando quindi di processi che partono da materie prime. No, questo infatti è e che vanno, se il percorso si è completato, il percorso che poi continuerò a presentarle, verso la formazione di nuovi alimenti, la produzione di nuovi alimenti che hanno un valore aggiunto importante. Quindi complessivamente. Ecco, ma scusi una domanda, ma l'industria vi dà questi rifiuti? Cioè, nel senso che in questo momento c'è la scelta, un'industria che produce, che deve smaltire determinate sostanze, può scegliere se darle all'università o se darle a qualcun altro che magari paga più di voi. Dunque, certamente in questo progetto ci sono delle aziende ovviamente che mettono a disposizione il loro sottoprodotto. In questo momento le filiere di valorizzazione di questi sottoprodotti sono assolutamente contenute e comunque consistono sostanzialmente nell'utilizzo parziale di questo materiale, per esempio per fare dei mangimi per animali, ma è un mercato contenuto, quindi il destino principale di questo materiale è adesso la discarica. Ecco. Quindi è chiaro che ci sono aziende che producono questo sottoprodotto e che ora pagano per distruggerlo, che sono molto interessate a trovare soluzioni. Chiaramente. Ecco, ma questo sul fronte, giustamente lei dice, dello smaltimento e dell'abbattimento dei costi dello smaltimento. Però c'è anche il fronte della produzione di alimenti, perché la popolazione mondiale aumenta e una delle grandi, diciamo, paure, una delle grandi fobie è che ci siano nuove crisi alimentari. Nova Lab 24. Restiamo insomma nell'ambito della rumenta, la chiamiamo così. Rimaniamo nella filiera. Tra l'altro rumenta è genovese, rimaniamo nella filiera per parlare di cassonetti intelligenti. Noi abbiamo in collegamento Daniele Gulick, ma prima ascoltiamo la scheda sempre redatta dal nostro Guido Romeo. L'antidoto agli odori molesti in città e centri storici si chiama MSD 112. È il cassonetto intelligente sviluppato da due società del Friuli Venezia Giulia, Dermap SRL, insediata al Parco Scientifico e Tecnologico di Udine, ed Elcon Elettronica, con sede nel Parco Scientifico di Trieste Area Science Park. Dotato di un sistema GPRS analogo a quello dei telefonini e di un meccanismo a ultrasuoni, è in grado di misurare la quantità di immondizia che ha al suo interno e di comunicare in tempo reale le informazioni ai camion di raccolta. Già collaudati in Friuli, nelle prossime settimane 67 di questi cassonetti intelligenti entreranno in funzione a Firenze, grazie alla Quadrifoglio SPA, la società toscana di servizi ambientali. Il vantaggio è duplice: niente spazzatura lasciata a marcire, ma anche meno giri a vuoto dei mezzi della nettezza urbana e un abbattimento dei costi di raccolta. Non a caso c'è già chi pensa di integrarli nei nuovi progetti di Smart Cities, le città intelligenti, in cui anche gli oggetti sono in grado di comunicare. Allora, posto che c'è un'inflazione della parola intelligente, nel senso che ci sono le città intelligenti, il cassonetto intelligente, poi ci sono i sensori intelligenti. I giornalisti intelligenti sempre mai, questo è un altro paio di maniche. Gulick, com'è che è nata questa idea? Buonasera. Allora, l'idea è nata da un'esigenza a tutti gli effetti per una città anche non molto popolata, quale poteva essere Trieste, quale potrebbe essere Trieste, ma è sempre in difficoltà con lo smaltimento dei rifiuti e soprattutto. Però mi dicono pulitissima Trieste, peraltro. Certo. Eppure nonostante la civiltà e l'altro. Certo, nonostante la civiltà, comunque c'era la necessità, soprattutto non dovuto tanto allo smaltimento dei rifiuti, ma quanto all'organizzazione della raccolta, per ovviamente agevolare i cittadini nel passaggio nelle vie del centro storico, perché ovviamente i camion passando e svuotando devono fermarsi quei 10 minuti per scaricare e bloccano il traffico anche nelle ore diurne. Quindi si è pensato a sviluppare questo elemento e questo sistema integrato. Quindi c'è anche un beneficio, diciamo, in termini poi di meno traffico, meno emissioni, meno diciamo, emissioni legate alle macchine che stanno ferme, aspettano la spazzatura che si svuoti, eccetera. Certo, perché il problema principale, ok, è il rifiuto, ma poi si è pensato ovviamente a tutto quello che è connesso alla gestione del rifiuto e del traffico stesso, quindi la mobilità sostenibile, visto che siamo anche una società che si occupa di monitoraggio ambientale e mobilità, ecco, e ecosostenibilità. Mi fa già capire, il sensore è all'interno del cassonetto? Sì. Sì, il sensore attualmente viene installato all'interno del cassonetto. C'è una scatolina comunque che rimane all'esterno dello stesso, che permette il ricevimento di energia solare e quindi alimenta tramite celle fotovoltaiche la batteria, che ha durata di 5 anni già testato. Sì, no, un ascoltatore ci ha appena scritto un SMS che dice, sì, insomma, ma com'è possibile, in Italia non riusciamo a smaltire con i metodi tradizionali, ci mettiamo a smaltire con i cassonetti intelligenti, peraltro si possono anche rubare allora a questo punto i dispositivi di sensori, no? Ma no, non è successo, nel senso che noi abbiamo testato l'elemento per 3 anni e poco più, e l'abbiamo creato comunque con dei materiali specifici che chiamiamoli anticarro, in quanto anche sopportano la pressione del camion stesso, e antivandalismo, che era sicuramente, no, anche antifurto, perché un cassonetto del, sì, genere con un sensore me lo porto a casa, io non so come sono fatti, però magari è anche un bello oggetto, no? La domanda, scusa, esteticamente non è così bello, però ovviamente ha delle componentistiche elettroniche interessante, ma veramente, però, uno se lo può portare a casa, cioè non ha interesse una persona, a parte il nostro collega qui, di portarsi a casa un oggetto del genere, perché non ha il senso dell'arte contemporanea, perché non ha la visione, Guido Romeo non ha la visione su quello che saranno le nuove tendenze dell'arredo urbano. Comunque, no, la domanda chiaramente d'obbligo e anche l'ultima domanda è quanto, sì, costa, perché chiaramente non sarà... Abbiamo lavorato per abbattere ovviamente i costi, in quanto questo elemento doveva essere integrato in una soluzione di gestione rifiuti urbana, e andando a gravare meno possibile sulle tasche del cittadino ovviamente. E sulla stima dei conti fatti a livello economico abbiamo capito che a grosso modo per creare una rete di dai 1.000 ai 3.000 cassonetti si potrebbe andare a gravare sul cittadino di €1 all'anno praticamente. €1 all'anno, no, siamo arrivati. Bella notizia. Bene, io la ringrazio e la saluto, mi raccomando mandi un cassonetto a casa di Guido Romeo, così cambierà idea. Lo faremo. Ecco, fatti tuoi. Lo aspetto. Allora, io la ringrazio, Nova Lab 24 torna alle 16:30. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.